24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Io sono umana con tutti. Non ci credete? Provate a chiamarmi da casa. Telefonatemi. Pronto? Cosa? Mi dispiace tanto, è un mondo ingiusto, lo so, ma io ne sono vicino, mi dispiace tantissimo, conti pure su di me. Chi era? E che ne so, era uno che ha sbagliato numero. Vabbè, questo è Maurizio Crozza che imita Anna Maria Cancellieri. Si salverà politicamente, credo, ma questa telefonata basta, basta, ormai l'ha inchiodata a vita. A vita, pensate che poteva essere Presidente della Repubblica, era uno dei nomi che girava, Anna Maria Cancellieri, per questa telefonata a Giulia sul caso Giulia Ligresti. Evviva, alle 6:33 minuti, questo è 24 mattino, siamo in diretta come sempre fino alle 9, c'è Miriam Lucchetti in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia e c'è il Parlamento che può aprire, come sempre. Sentite che bella serranda, felice. Nicole Minetti è sempre felice, insomma. Milan, te e i tuoi amici giornalisti, siete giornalisti di merda! Giornalisti di merda! Giornalisti di merda! E così siamo pari col pubblico. Ciao Milan, buona giornata. Ai ai ai, io... ho capito, ho cominciato a intuire qualcosa. Intanto voglio salutare Paola Saluzzi. Buongiorno Paola. Io da ottimista spietata dico che in fondo quanto poc'anzi citato nella parola di Cambron porta fortuna. Sì, sì, infatti. Ma vogliamo tu, dirla così? Ma tu non sai perché oggi allora il nostro Luca Dini non c'è, ma il mercoledì. Per perdere queste abitudini. Il direttore, eh? Il direttore deve di Maletti Ferro. Per perdere queste abitudini. E allora io oggi, perché di solito il mercoledì c'è Paola Saluzzi e Luca Dini, ma questa telefonata che è arrivata così forse fa intuire chi potrebbe essere all'altro capo del telefono. Marione Adinolfi, che voglio... Eccolo, che eleganza la Saluzzi per commentare. Io Cambron, sull'attenti Marione, sull'attenti, buongiorno. No, ma perché Paola, tu sai, non so se sai la disfida che il nostro Marione ha intrapreso con il pubblico. Che per lui è solo un pubblico di un certo tipo, no? Morettianamente. Ecco, ecco. Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda! Però Marione, pan per focaccia, come si suol dire. Era arrabbiato, poi non con tutto il pubblico, voglio essere visto, con il pubblico della segreteria telefonica, che è quello dalle punte di diamante della tua trasmissione. Vabbè, insomma. Ma intanto io ringrazio Maria Dinozzi per le sue facce da dramma numero 8 che mette su Twitter, insomma, su questa conoscenza che ci fa avere di un'altra parte della città e di un'altra parte della città. Ah, ecco, i tram, certo, i tram, lui fotografa i tram. Che c'avevi tu, Maria Dinolfi? Ah, brutto! Ah, sì, anche quello. Che c'avevi, sì, faceva il verso al brutto cretino d'un Milan, vabbè, pure quello. Brutto, pure. Quello lì non lo mandi più, quella è la divertente. Basta, No, la signora, mandiamo anche la signora arrabbiata, che dobbiamo fare? Su, dai, mandiamo. Sì, io ce l'ho contraffi dal pre, Milan, sei proprio un coglione. Come fai a lavorare lì? Ma è possibile che sei un pievo così lavori? C'è anche questo, c'è anche questo. Oggi mettiamo il carico da 90. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Ci siamo tutti oggi. Abbiamo altro da offrire? Basta, diciamo che ci siamo tutti. Allora buongiorno comunque. Buongiorno. Vi ha convinto, caro Mario, ti ha convinto Anna Maria Cancellieri? Ma no, non è convincente tutta la storia, non sta in piedi, insomma, cioè l'idea, io sono un ministro buono, mi do da fare per chiunque mi telefoni e ben fotografare la Crozza, insomma, chiaro, questa è una storia al di là di Anna Maria Cancellieri, è una storia che racconta il rapporto dei potenti con i potenti, questa è la cosa che rimane poi alla fine, insomma. Per questo cui, sì, questo non c'è niente da fare, la gente si arrabbia, è inevitabile che si arrabbi, forse è inevitabile che accada quello che è accaduto fotografato da quelle intercettazioni, però sicuramente non chiedere alla gente oggi di dire brava Anna Maria Cancellieri, perché non ve lo dirà, non c'è niente no, da fare. No, no, infatti la gente, devo dire, c'è anche questa frase, e chiedo anche a te Paola Saluzzi se ti abbia convinto oppure no, c'è questa frase che ha detto ieri, che non si è ben capito, se il paese me lo chiede, io da due giorni che mi interrogo, ma come fa a sapere? Esatto, come fa a sapere, cara Paola Saluzzi, ha fatto un sondaggio per sapere? È chiaro che il paese non lo possa dire, è vero, per quanto incredibile, possa sembrare che la Cancellieri si sta occupando di più cose con più attenzione forse di come non sia accaduto prima. Questo è vero, questo è vero. 110, 109 altri casi vicini, simili, dissimili, comunque complessi, come può essere la vicenda di una persona che sta andando. No, di questo, cara Paola, hai ragione, le va dato atto. Io non ho raramente atto, visto però, un ministro alla giustizia battersi per, ma proprio in prima persona per i diritti dei detenuti italiani. Questo è vero, però. Però in ogni caso non pecchiamo di ipocrisia, purtroppo, questo è accaduto, quando lei ieri ha detto io sono comunque una persona libera, non voleva dire libera di fare favori ad altri out potenti, perché qui il problema è che in mezzo c'è il cognome Ligresti, perché nessuno farebbe argomentazioni sugli altri 109, ecco, allora lapidare una persona per un cognome e non prendere in considerazione gli altri casi su cui è stata evidentemente risolutiva, mi sembra un atteggiamento troppo facile. No, ecco, poi la critica ci sta tutta, però mi sembra un atteggiamento troppo facile. Sì, sta di, sta di fatto che si salverà politicamente parlando, e con questo, si salva il governo. Ci dobbiamo salvare noi politicamente, esatto. Economicamente, da un punto di vista di vita di paese, ci dobbiamo innanzitutto salvare noi. Ecco. Ma è vero, secondo te, Mario, che salvando lei si salva il governo Letta? Cioè, proprio che caduta lei potrebbe effettuare, cioè potrebbe causare quell'effetto, sì, stamattina non riesco a parlare, causare quell'effetto domino per cui cadeva tutto? Se... Il problema in Italia è sempre quello, che tutto ha poi un codè di strumentalizzazione al di là del fatto in sé, per cui vi ricordate la Shalabayeva, anche quella sì, era una cosa enorme, no? Certo. Lì si scatenò e si misurò la capacità di tenuta di un governo rispetto a un fatto che francamente grida vendetta. Adesso siamo nello stesso clima, cioè si misura quella capacità di tenuta anche rispetto agli schieramenti interni ai partiti principali. Quanto sono forti i falchi che vogliono la crisi del PDL, sì. Quanto i renziani, che sicuramente non amano questo governo alla follia e vorrebbero le elezioni il prima possibile, useranno questo incidente per far cadere questo governo. Certo, ieri se guardavamo per esempio Ballarò, no, vedevamo la Boschi, no, valenziana, no, che andava giù Trura, insomma, no, no, beh, io guardavo, no, dimmi, tu ieri guardavi Juve Real Madrid, adesso certo tu guardavo Juve Real Madrid, adesso te che guardavi Ballarò ieri non ci crede nessuno a Adinolfi, di la però l'ha detto, cioè, benissimo, l'ha detto, sì, molto se, allora, ha detto se guardavamo ieri Ballarò, ma non lo guardavamo perché ieri c'era Juve Real Madrid, e quindi ovviamente no. Io tra l'altro in realtà è un vero cruccio che da due giorni Sul caso Anna Maria Cancellieri, se voi vedete una foto, oggi La Stampa la pubblica bene a pagina 8, e io ho questo dubbio, ma perché c'è sempre questa borsetta che si tiene stretto? L'avete notato? Dove va? È andata dai magistrati, era in Parlamento davanti al microfono con la borsetta, se la tiene. È la sindrome Queen Elizabeth. Ma che vuol dire? Che cosa porta la regina Elisabetta in quella benedetta borsa? Per 50 anni non ha le chiavi di casa, i fazzoletti c'erano le sue dame di compagnia. No, ma guardate la foto, è incredibile. Guardate la foto, cioè lei parla nelle questioni istituzionali, nei momenti istituzionali, anche in Parlamento, e c'ha la borsetta a tracolla, cioè come dire, sono qui per caso, manco l'appoggio, e se la tiene stretta con la mano. Mario Adinolfi, cosa avrà in quella borsetta? Effetto nonna Pina, questo è chiaro. Ma no, ricordami, era mia nonna pure, chi la faceva mai mollare la borsetta? Paola, l'effetto nonna, potrebbe, altro che effetto regina, effetto nonna. Una cosa, per fortuna a quest'ora dorme la mia mamma, tu vai, no, anche a casa, nella borsa. Mamma, ma lasciamela la borsa. Ecco, ecco, è passata adesso, è passata adesso, guardate, in TV, è passata adesso in TV, se con lo zoom sul fatto che si tiene la mano sulla borsetta a tracolla mentre parla. In ma ognuno ha la sua coperta di Linus, parliamo. Non lo so, ma appoggiala, cioè, forse ha paura che gliela rubino in Parlamento. No, no, non capite, non capite il rapporto fondamentale e da cordone ombelicale che esiste tra una donna e la sua borsa. Come si vede che... Capito. Si porta la barbona e tu sei un funambolo. Capito, Mario? Ecco, capito? Cioè, siamo uomini, siamo uomini. E non capiamo questo rapporto con la borsa. Vabbè, e in tutto questo, il 27 in genere arrivano i salari, no? Era così. Se 27 giorno di paga. Caro Mario, giorno di paga il 27 novembre rischia di diventare un giorno di paga per Silvio Berlusconi. La chiuderemo sta benedetta fatta. Ah, guarda, io siamo alla telenovela puntata numero 9322, credo. Tutto più o meno già scritto, quindi sì. Non ho capito bene perché si sussulta ogni volta che si smette un circoletto sul calendario. Questa partita è già giocata, quindi già sappiamo come è andata a finire. Già sappiamo. Deve solo arrivare una data. Sarà una data così clamorosa. Sì. Si aspetta che entro il 27 arrivi la grazia ai napoletani? Non credo, io non lo so. Non faccio sprofondare. Ma poi, come ha detto Napolitano, va chiesta la grazia. Comunque, prima io voglio farvi sentire sul caso Cancellieri Brunetta. Perché Brunetta, sentite, lui che è stato ministro, dice: sentite cosa deve esercitare un ministro. Brunetta. Che paese è questo? Se un ministro deve ringraziare la buona sorte per non essere capitata sotto il rito ambrosiano. Una persona stava male, che fa un ministro? Deve esercitare la pietas, non ci sono deroghe. E povero paese quello dove uno deve avere paura di essere semplicemente se stesso e compassionevole. La pietas, cara Paola, hai capito? Ma tu hai capito veramente perché il Popolo della Libertà sostiene così tanto Anna Maria Cancellieri? Perché il governo deve andare avanti, perché il governo deve andare avanti... si pedala tutti con un unico colpo di pedale, un unico modo, metodo di pedalare sul tandem, un tandem lungo nel quale molti avrebbero voglia A di scendere, B di far deragliare, D non so, salto la C, di andare altrove, però si pedala tutti nella stessa maniera. Si pedala insieme. Santa ingenuità della salute. Perché? Mario, tu che dici? Perché c'è il parallelo con Rubio. Ah, per quello, eccolo lì. Fare la telefonata, allora Berlusconi. Ecco. È ovvio, si scatta proprio il riflesso condizionato. È così, c'è proprio. Tanta trasmissione. Eccola. Infatti ieri qua Nitto Palma ai questi microfoni ha detto: beh, chi non paragona le due cose è farisaico, no? Sono due telefonate. Ha ragione, insomma, cioè, io ma dai, ma sono due cose diverse. 7 anni e brava la cancelliera, cioè, beh, dai, però sono due cose diverse, Mario, cioè, vabbè, effettivamente... Spiegalo sul tram dove vado tra poco. Ecco, sul tram, effettivamente sul tram la percepiranno come una cosa... Vabbè, allora Mario, per tenere questo buon umore andiamo al traffico e poi ci sono i tuoi grandi amici, i grandi amici della segreteria telefonica che tornano tra noi. 24 mattino. Oh, carissimo Milan, io sono sempre il vecchietto di Milano. Ultimamente ho sentito che il PD paga per fare le tessere. Se tu sei al corrente, puoi indicarmi dove posso andare? Se mi danno qualche soldo, la faccio anch'io la tessera, non c'è nessun problema. Tanto ho bisogno di soldi, ho bisogno di guadagnare. Ciao Milan. Io la prego vivamente di ricordarsi quando può della situazione drammatica cui vertono migliaia di esodati. Ciao Milan, sono Paolo, tassista di Milano. Sono una delle voci del paese e vorrei consigliare al ministro Cancellieri di dimettersi in virtù appunto del mio ruolo di membro del paese. Ciao Milan, che Dio tassista. Tramite la tua segreteria telefonica vorrei mandare un grosso vassoio di vaffanculo a chi parla di coperta corta, ai politici in genere, ma soprattutto a chi scarica scontrini da 50 centesimi. Buongiorno onorevole cancellieri, io sono un pezzetto del paese, le dispiacerebbe dimettersi? Grazie. In Italia va così, la democrazia, tel dise milanese, liberté, égalité, fraternité e Chaplin del De Dre. Ma che democrazia, la saccoccia a pagare chi, la resta sempre la mia, te capì? Ciao! Vabbè, io l'ho capita perché sono di Milano. Cara Paola Saluzzi, tu l'hai capita questa? Orientativamente qualcosa è arrivato. Anche in maniera un po' intuitiva, sì. Qualcosa è arrivato. Ho trovato terribile e forte e chiarissima la richiesta di occuparsi degli esodati. Lo so. Ma perché le nostre, la nostra segreteria telefonica, tanto bistrattata da Marione ad Inolfi, caro Mario. Oggi è meglio. Stiamo educando finalmente questi ciarlatani che ci ascoltano. Basta, Mario. Insomma, no, non siete ciarlatani, anzi siete sempre di più e state con noi. Smettila. Basta! Ecco, ti ho mandato Oscar Giannino, te lo rimando, ti rimando. Basta! Questo era un Oscar Giannino. Recente, quando era proprio arrabbiatissimo. Adesso è sempre arrabbiato, ma anche meno. Allora, in quello che ha detto dei 50 centesimi, vabbè, oggi ci sono, e lo vedremo in rassegna stampa, le novità: panettoni, spumanti, aceto balsamico, parmigiano reggiano, questi sono i rimborsi dell'Emilia Romagna, però tutti i prodotti locali, almeno devo dire che hanno scelto giustamente per promuovere il me. Lo zampone? C'è lo zampone. Sì, me lo sono dimenticato. Ma la domanda che mi inquieta da tre giorni effettivamente è questa. Ma perché uno proprio adesso vuole iscriversi al PD? Proprio c'ha questa voglia, no? Paola, tu perché ha uno proprio in questo momento, c'è questo boom di iscrizione? Oh, che c'è proprio una voglia. Perché era come quando si ballava il twist, a un certo punto non cominciò a ballare. Va di moda. Non lo so. È irresistibile, sì, adesso. Da un po' da pensare, insomma, sì, ecco, sì. Da un po' da pensare, però non pensiamo male. No, infatti. Mario, c'è questa irresistibile, irrefrenabile voglia adesso di gente, albanesi, rumeni, italiani, giovani. Tutti i congressi in vita mia l'ho fatto, insomma, sono sempre andati così, insomma, tutti i congressi si fanno come ad essere gonfiate, ingonfiate poi, semplicemente cerchi di raccattare tutto quello che c'è per strada, gli metti in mano i 5-10 euro, quello che serve, sì. Per la tessera, e si fanno queste cose. Da che mondo è mondo? Non è questo congresso del PD che va così. Quindi con soldi nostri, chiaro. Perché come fanno? Che gli mettono in mano i soldi, 5-10 euro per fare la tessera? Con quali soldi? Tendenzialmente sono i potenti, quindi tendenzialmente usano soldi che derivano sicuramente da diarie, da cose. Però, il meccanismo per cui sotto congresso le tessere aumentano, cioè o si gonfiano, o usiamo il termine che ci vuole, è sempre avvenuto. Ovviamente è molto brutto, inelegante a vedersi, ma quando tu stai facendo una corsa e Milan, se tu porti più ascoltatori, vinci l'Oscar, farai di tutto affinché ci siano più ascoltatori possibili per te, e se ti danno la possibilità di pagarteli, te li paghi l'Oscar, e soprattutto se invito gente come te che gli dà dei ciarlatani, sarà facile avere tanti ascoltatori. Vedi che il meccanismo funziona, è come con le donne: prendi una donna, trattala male. Lui ha questa circola. A questa teoria, cara Paola, che devi trattare male gli ascoltatori, perché così ti ascoltano. Migliorano e fanno le cose migliori. Vabbè. Sono raffinati, ma poi abbiamo tutti intellettuali. Dimmi un po', Paola, tu di che ti occupi oggi a Sky TG24 pomeriggio alle 15? Allora, ricordiamo. Noi pensavamo al punto croce a fare una lezione pratica di punto croce, e proprio così, anche perché in HD viene benissimo. Sì, infatti. Invece abbiamo girato la scaletta sulla politica. Ah, beh, quindi certo. Ci occuperemo di politica. Avremo Antonio Bassolino. Basso!

Potrebbe essere una buona notizia, ma lo stesso Domenico Quirico scrive: M23 esce di scena, sconfitto, rinnegato dai suoi padroni, Ruanda, l'Uganda, che hanno cambiato strategia, ma questo non vuol dire che scenderà la pace in questa parte del Congo. Beh, una bella pagina anche per occuparci di cose non solo italiane, ve la segnalo in prima pagina della Stampa e poi continua pagina 15, Congo, la resa dei ribelli nella guerra infinita per i tesori. Vabbè, siamo al momento conclusivo, cari ascoltatori, il momento per alcuni più atteso, il momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, siamo al momento della carta costa e oggi stravince Libero con Alessandro Dell'Orto che in prima pagina di Libero e poi un'intera pagina, pagina 18, si dedica al Tuca tuca del prete, ma sì, questo prete che io ho già intravisto da qualche parte, credo ovviamente da Barbara D'Urso, voglio immaginare, diventato famoso Don Bruno Maggioni che balla i matrimoni e alla fine dei matrimoni mette su Mamma Mia dei ricchi e poveri, ma proprio in chiesa, lo potete vedere su YouTube, è diventato un video seriale, balla i matrimoni, il tuca tuca del prete a messa fa il pieno di fedeli, in rete già una star e ti fa pure Juve, ma ce le ha proprio tutte questo prete, ce le ha proprio tutte, è pure un tifoso della Juventus e dice sono dell'anno 54, una classe di ferro, io, Miguel Bosé, Gianna Nannini e Moana Pozzi. E questo è un prete? Ma dai, su, Libero, la carta costa, giornale radio. Mattino. Eccoci qui, le 8 e 20 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, noi ci svegliamo tutte le mattine, andiamo nei posti di lavoro, portiamo i nostri figli a scuola e ci svegliamo, per esempio, scoprendo questa mattina, cari italiani, che entro il 16 dicembre forse si pagherà la seconda rata dell'IMU. Altrimenti bisogna trovare 2,4 miliardi di euro per scongiurare questa cosa. Sempre così, insomma, lo Stato che chiede soldi, che cerca soldi, ma noi già da due giorni fa con il ministro Delrio e parlando e partendo dal caso delle province che non si cancellano mai, stiamo cercando di capire dove invece lo Stato possa risparmiare denaro, come si può per esempio ridurre la spesa pubblica. Oggi torniamo su questo tema, cerchiamo di dare delle risposte concrete, delle proposte concrete, visto che c'è anche un commissario alla spending review da qualche giorno, un nuovo commissario per la verità, Carlo Cottarelli. E allora ne vogliamo parlare intanto con i primi due ospiti. Sono un docente di economia politica all'Università Tor Vergata, il professor Gustavo Piga, che saluto. Buongiorno professore. Buongiorno, come sta? Bene, tutto bene. E tra l'altro tra poco entriamo appunto in questo mare magnum degli sprechi della pubblica amministrazione. Voglio salutare anche un deputato del Partito Democratico, è considerato il consigliere economico di Matteo Renzi, certamente diciamo vicino politicamente a Matteo Renzi, e si tratta dell'onorevole Yoram Gutgeld, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, professor Piga, lei è stato anche presidente della Consip. La Consip è una società del Ministero dell'Economia, è quella che gestisce anche la cosiddetta centrale unica di acquisto. Lei ha scritto questo articolo su Panorama la scorsa settimana, nella quale c'è questa cifra, 30 miliardi di euro, a tanto si annidererebbero gli sprechi. Gli sprechi perché? Lei fa un esempio concreto, immaginate due comuni, due amministrazioni, due enti che comprano due ambulanze, uno la paga 20.000 euro e l'altro 40.000 euro. Ecco, già qui c'è da dire perché non si può obbligare l'amministrazione che le paga 40.000 euro a pagarla 20.000, visto che si può, professore? In realtà le amministrazioni statali su un certo numero di beni sarebbero obbligate a comprare in convenzione Consip. Le amministrazioni locali invece devono prendere i prezzi di Consip come riferimento. Il problema vero è che se noi guardiamo i dati che ci sono, e questa è la cosa importante, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze siede, ha nella sua pancia un tesoro, ha la cosa più importante di tutti, ha il dato. E se guardiamo questi dati, quello che emerge chiaramente dal dato stesso è che moltissime amministrazioni statali non comprano come dovrebbero all'interno di Consip. Quindi la domanda chiave è: perché non facciamo i controlli e obblighiamo quelle amministrazioni a comprare in queste convenzioni? Questo è un argomento che va avanti ormai da, da tempo, certo. Però questa cifra 30 miliardi, cioè c'è uno studio che lei ha citato che andando a spulciare tutti gli appalti dell'ultimo decennio si possono individuare sprechi per 30 miliardi, cioè mancati risparmi per 30 miliardi se tutte le amministrazioni si fossero comportate in modo virtuoso a acquistare con Consip. È una cifra. No, è una sottostima. È una sottostima, anche di più. È una sottostima per un semplice motivo, che quei dati che vengono da uno studio importante di tre ricercatori italiani della London School of Economics e di Tor Vergata, che è stato pubblicato su una rivista prestigiosissima, guardavano intanto non agli appalti di lavori ma solo agli appalti di beni e servizi. Certo, gli appalti di beni e servizi, si ricordi, cubano il 9% del prodotto interno lordo, quasi il 10%, quindi siamo sui 130-150 miliardi. Poi ci sono i lavori pubblici di cui loro non si occupano. Seconda cosa, loro si occupano soltanto degli sprechi di prezzo. Sì. Perché io compro a prezzo alto, poi ci sono tutti gli sprechi di quantità. Chiaro. È una galassia favolosa. Chiunque le dice che non ci sono i soldi dice una grande menzogna, ed è una grande galassia favolosa. Ricordiamoci perché è favolosa, perché non è che tagliare lo spreco è qualcosa di fine a se stesso. Che sia un partito di sinistra o un partito di destra, tutte e due dal taglio dello spreco hanno lo strumento per cambiare il paese. La destra probabilmente ce l'ha per abbattere l'imposizione fiscale e la pressione fiscale, la sinistra, se è una sinistra tradizionale, ce l'ha per rifare tutti gli investimenti pubblici all'interno del paese senza aumentare il debito. Quindi è un volano incredibile. Certo, è interessante il fatto che ci si concentri sul costo, cioè del perché una sedia costi in un'amministrazione, che so, 300 euro, in un'altra 200, ma non anche appunto sulla utilità di quell'acquisto, perché lei ci sta dicendo che a volte si acquistano anche magari 100 sedie e poi non servono neppure, e questo è un'ulteriore sottodomanda che apre un grande capitolo di possibili ulteriori sprechi, o no? Sì, attenzione, che qui il punto vero è si devono alzare delle bandierine rosse quando vediamo questi dati strani, il che non vuol dire, bisogna stare molto attenti, che se qualcuno compra a un prezzo più basso di un altro, quel qualcuno è da dargli la medaglia d'oro e quell'altro che compra a un prezzo più alto è da cacciarlo, perché molto spesso la corruzione e l'incompetenza passano per un appalto fatto male in cui alla fine si dà una cattiva qualità a un basso prezzo. E quindi la verità è che se si alza la bandierina del prezzo alto, tu devi andare a vedere perché ha comprato a un prezzo alto, e magari scopri che quella è un'eccezionale stazione appaltante che controlla tutto, che scute le penali, e quindi i fornitori quando vanno si coprono con un prezzo alto perché sanno che quella stazione appaltante devono fare il lavoro fatto bene. Questo è il tema poi che abbiamo affrontato anche qualche giorno fa con Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni, della anche responsabilità e responsabilizzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione, perché se uno acquista eccetera e fa un acquisto che è spropositatamente, evidentemente sballato, paga per questa responsabilità, e questa è un'altra questione. Io vorrei, onorevole Gutgeld, c'è un uomo solo al comando, Carlo Cottarelli, lei la vede così la possibilità della spending review, oppure i tagli non vengono fatti da una persona, dall'alto, che individua gli sprechi? Ci dica la sua ricetta. Lei ha parlato adesso di responsabilità, che è a mio avviso il tema chiave. Le opportunità di riduzione di costi nella pubblica amministrazione sono enormi, quindi la domanda non è il se, neanche il dove, è il come. E il come non può che passare attraverso le persone che hanno la responsabilità a gestire queste strutture. Se noi vogliamo ridurre i costi della difesa o della polizia o della sanità, bisogna che questa responsabilità sia in capo a chi gestisce queste strutture. Per cui un commissario alla spending review, e io faccio tanti auguri a Carlo Cottarelli, potrebbe avere un ruolo di coordinamento, di facilitazione e così via, però la responsabilità e le attività e i risultati possono portarli solo, esclusivamente, chi ha la responsabilità. Cioè nella difesa bisogna chiederlo al Ministro della Difesa, al Direttore Generale del Ministero, al Capo delle Forze Armate. Questo è il modo in cui bisogna farlo. Bisognerebbe che nei prossimi mesi ci attrezziamo, che il governo si attrezzi a far questo. fare questo. Quindi la responsabilità, ma esiste secondo lei questa responsabilità in questo momento in Italia, fino a questo momento, onorevole Guttke, in Italia, cioè di un dirigente che sbaglia e che per questo viene chiamato a rispondere del suo sbaglio? Non parliamo di eventuale corruzione, quelli sono casi giudiziari, la magistratura indaga ovviamente. Certo, questo è un problema. Noi abbiamo un problema di, chiamiamolo, meritocrazia della pubblica amministrazione. Cioè noi abbiamo bisogno di un sistema dove qualcuno è premiato se fa bene e in qualche modo viene punito o viene sfavorito se non fa bene. Questo favorire o sfavorire potrebbe essere fatto in termini di premi monetari, potrebbe essere fatto anche in avanzamenti di carriera. Quindi è importante che noi instauriamo una cultura meritocratica. Dico tutte queste cose perché giustamente il professor Piga identifica tutte le opportunità e ce ne sono, non c'è dubbio, però per effettivamente riuscire a realizzare questi risparmi, effettivamente, non solo sulla carta, bisogna che ci siano dei cambiamenti importantissimi in modo in cui funziona la pubblica amministrazione, a partire dalla meritocrazia. Dalla meritocrazia, un tema di cui si parla tantissimo e che viene poco applicato, lo dico io per voi in Italia. Allora, tra qualche minuto riprendiamo con il professor Gustavo Piga, con Yoram Gutgeld, ci raggiungerà anche Giorgio Cremaschi, che è portavoce del comitato No Debito, e vorrei sentire anche il commento degli ascoltatori. Come sempre i microfoni sono aperti, 800 24 00 24, e ripartiremo da questa domanda, che è un messaggio di un ascoltatore, è un tema centrale. Quello che voi definite, che io chiamo sprechi, sono, attenzione, stipendi pubblici. È lo stesso che ha detto l'ex ministro Elsa Fornero di recente in un'intervista al Corriere della Sera. Ha detto: attenzione, ridurre la spesa pubblica vuol dire mettere sulla strada anche persone, dipendenti pubblici. È davvero così? 24 mattino. Eccoci qui, allora, alle 8:35 minuti, insieme al professor Gustavo Piga, che ricordo insegna economia politica a Tor Vergata, è stato presidente della Consip, insieme all'onorevole Yoram Gutgeld del Partito Democratico. Stiamo parlando di come uno Stato può dimagrire, può risparmiare. Voglio salutare, ci ha raggiunto Giorgio Cremaschi, che è portavoce del comitato No Debito, ex dirigente della FIOM. Buongiorno Cremaschi. Allora, fatevi sentire un ascoltatore, poi pongo questa domanda che ci ha posto via sms proprio un ascoltatore. Prima Bartolo da Palermo. Buongiorno Bartolo. Buongiorno. Lei che pensa? Come si può ridurre gli sprechi nella pubblica amministrazione? Intanto è necessario sfatare un mito e abbattere qualche tabù, perché altrimenti andiamo sempre nella direzione opposta. Allora, non è vero che tagliare la spesa pubblica significa andare a tagliare gli stipendi per forza, come unica possibilità, perché già questo accade sistematicamente da anni con il blocco dei contratti, e quindi serve anche guardare un pochettino la realtà delle cifre. Allora, tutto il pubblico impiego vale attualmente in Italia una spesa di 160 miliardi di euro, ed è una cifra che non è per niente consistente. La spesa per i beni intermedi, quindi mentre il primo fattore, stipendi, è in continua discesa per il blocco delle assunzioni e per il blocco dei contratti, la seconda spesa, beni intermedi, ammonta a 132 miliardi, e sono soldi che si vanno a posizionare in nicchie di casta e di potere. Quindi? Sono quindi questi. Significa che, per esempio, il blocco dei contratti, perché questo è stato un approccio sbagliato alimentato ad arte, il blocco dei contratti non solo ha danneggiato i lavoratori del pubblico impiego, che sono sempre più demotivati, sì, ma indirettamente ha comportato la chiusura di tanti esercizi commerciali, perché quando gli stipendi e il salario di chi lavora è fermo e non si arriva a fine mese, non ci sono i consumi. Taglia la domanda però interna, Bartolo, mi scusi, perché lei fa una lunga, insomma, analisi della situazione. Mi pare di capire, insomma, che sono questi beni intermedi. Non è la soluzione quello di ridurre gli statali o ridurre anche gli stipendi. Non so, lo chiedo, professor Piga, secondo lei condivide quando l'ascoltatore ci scrive via sms: ridurre la spesa pubblica vuol dire ridurre, cioè, come dire, eliminare posti, eliminare stipendi pubblici? Guardi, è eccezionale, non c'è quasi nulla da aggiungere a quello che ha detto il signor Bartolo. Se lei prende i dati di Roberto Perotti, per fare un esempio, perché dobbiamo far parlare sempre i dati sulla Camera, sulle spese della Camera, vedrà che dal 2012 al 2013 sono aumentate circa di 120 miliardi, da un miliardo a un miliardo e due, vado grossolanamente. Di questi 120 milioni, da un miliardo a un miliardo e due, un miliardo e 120. Cosa, dove stanno gli aumenti? Stanno tutti, incredibilmente, più 60 nell'acquisto di beni e servizi, più 40 in spese in conto capitale. Se lei guarda tutte le spese per dipendenti, per personale, anche gli stipendi dei politici, stanno stabili. Allora, il punto chiave qual è? Si guardi i dati del documento di economia e finanza, Monte e Letta prevedono dal 2012 al 2017 un calo della spesa per dipendenti da 10,6% del prodotto interno lordo al 9,2%, 1,4%. Che vuol dire? Vuol dire semplicemente che stiamo disinvestendo dal personale della forza pubblica. Come lo facciamo? Molto importante, lo facciamo col turnover. Se lei guarda tutti i dati, ovviamente il blocco del turnover, se lei guarda tutti i dati di come il settore pubblico italiano si paragona ai settori pubblici degli altri paesi, dati Confindustria, scoprirà che non è vero che il problema della pubblica amministrazione italiana in termini di forza lavoro è la quantità. Abbiamo un po' più di dipendenti pubblici, certo, che in Germania, molti meno che in Francia e Scandinavia. Sa dov'è l'efficienza, la scarsa efficienza? E sa qual è l'indicatore più forte di efficienza? Siamo il paese con il più alto tasso nella pubblica amministrazione di dipendenti over 50. Non c'è più un giovane dentro la pubblica amministrazione. Le faccio un esempio e poi chiudo. Mm-hmm. I ricercatori universitari, si parla tanto dell'importanza dell'università della ricerca. Lei pensi che un mio bravo dottorato che va all'estero, se deve tornare in Italia, gli promettono 1200 euro al mese, di fronte a uno stipendio di un'università inglese di 3.500 sterline. E certo, chi glielo fa fare? Chi glielo fa fare? E per quattro professori che vanno in pensione posso prendere un giovane. Allora è vero, la leva vera sono gli sprechi negli appalti pubblici. Con quella leva ci rimettiamo tutti i giovani dentro la pubblica amministrazione, perché non esiste un paese forte economicamente se non ha uno Stato forte, accanto, scintillante e competente. Ma certamente c'è da dire che l'abbiamo detto tante volte, nulla contro il numero dei dipendenti pubblici in Italia, che come dice lei è sui parametri europei, tedeschi, ma la questione dell'efficienza, e tra l'altro è una questione che si legava al termine della meritocrazia di cui faceva riferimento prima l'onorevole Guttgeld, sul quale tema vorrei coinvolgere Giorgio Cremaschi. Prima, caro Cremaschi, l'onorevole Guttgeld diceva la vera sfida è la meritocrazia, cioè anche quel dirigente che sbaglia, responsabilizzare nella pubblica amministrazione laddove ci sono gli sprechi, responsabilizzare anche punendo chi sbaglia. In questo le faccio fare più ruolo da ex sindacalista, visto che l'ha fatto per tanti anni. Non c'è una responsabilità del sindacato in questo, secondo lei, Cremaschi, nel non aver voluto affrontare questo tema? No, perché i dirigenti non sono tutelati dal sindacato, quindi almeno dal sindacato operaio che conosco io, sì, quindi certo, no, non certo. Ce n'è nessuna, quindi i dirigenti hanno altre tutele, hanno altre organizzazioni, quindi... Ma in generale? Sai, questo discorso della meritocrazia, onestamente a me pare un po' un imbroglio, lo dico sinceramente, penso, per due ragioni. Uno, perché adesso senza offendere nessuno, io sento tutti parlare di meritocrazia, però ho la mia sensazione che la gran parte di coloro che parlano di meritocrazia, se ci fosse davvero la meritocrazia, non sarebbero dove stanno. La seconda cosa è che dobbiamo distinguere a cosa serve la meritocrazia, cioè la meritocrazia oggi in Italia copre un'altra questione. Allora, discutiamo di questo: la meritocrazia deve servire per raggiungere l'eccellenza, secondo me, cioè oltre un certo livello c'è la meritocrazia e deve essere premiata con la meritocrazia. Ma la meritocrazia non deve servire per raggiungere i diritti costituzionali, cioè io non mi devo meritare di vivere, ho il diritto di vivere, ho il diritto alla casa, alla scuola, alla sanità, a un lavoro sicuro, tutte cose che oggi in Italia rischiano di non esserci più. Quindi la meritocrazia dovrebbe essere, come si dice, il punto, la vetta di un percorso alla base del quale ci sono i diritti. Detto questo, se mi permette, sì, siccome ho sentito la prima parte della discussione e ho apprezzato anche le analisi che mi paiono molto convincenti, vorrei anche qui però fare dire una cosa un pochino controcorrente, cioè io questa cosa qui che ci sono gli sprechi della pubblica amministrazione, che giustamente chiaramente il dibattito sia il professore che l'ascoltatore hanno chiarito poi non derivare dal numero e, né tantomeno dagli pubblici. Stipendi che sono bloccati, lo voglio sottolineare, fino al 2017. Questo diventerà una questione sociale enorme nel nostro paese, perché faccia un po' di conti ed è chiaro. Allora, detto questo, noi siamo di fronte al fatto che tutte le forze politiche, tutte quelle che si alternano al governo, nessuna esclusa, parlano della necessità di tagli, però lei ci faccia caso, io non ho mai sentito una forza politica, ripeto, di quelle che si alternano al governo, spiegare dove taglia. Cioè, la sostanza è che in tutti questi anni noi abbiamo avuto i cosiddetti, tagli al di là lineari. Delle chiacchiere, i cosiddetti tagli lineari, si sono avvicinate le maggioranze, abbiamo avuto i tagli lineari, per capirci, taglio uno spreco, ma taglio anche un letto d'ospedale, taglio un pezzo di scuola e magari taglio anche... Che allora, guardi che nell'analisi allora, del professor secondo Piga me il è compito quello... fondamentale della politica, premesso che io poi penso che non bastino i tagli, ma... Siccome anch'io ovviamente e siccome frequento lavoratori, sono spesso anche i lavoratori della pubblica amministrazione che se potessero e se fossero più liberi, se avessero più spazi, più interventi, denuncerebbero sprechi, perché per essere chiari questi avvengono a tutti i livelli, quindi ma lei invece cosa suggerirebbe? Non i tagli al posto dei tagli lineari? Al posto dei tagli lineari penso che bisognerebbe dire dove si taglia, intanto quindi io penso che andrebbero tagliate alcune spese, io posso fare un elenco adesso, anche facile per me, posso dire taglierei alcune grandi opere, ad esempio la Valle Susa, taglierei gli F-35, farei l'operazione sicuramente di revisione del sistema di acquisti della pubblica amministrazione, anche se però, voglio sottolineare, anche se è giusto che la pubblica amministrazione risparmi e paghi, come si dice, un bullone allo stesso modo. Dico questo perché questa è una cosa antica. Io ricordo che quando c'era il movimento pacifista negli Stati Uniti, e parlo quindi degli anni Ottanta, quindi con una presidenza liberista, quella di Reagan, ci fu una conferenza stampa clamorosa negli Stati Uniti di questo movimento pacifista che faceva vedere come a dire la verità era come si dice la copertura del water copertura di plastica del water dell'esercito costava quale caserma costava $100 l'una, cioè delle cifre enormi per allora, quindi vuol dire è chiaro che ci vogliono dei meccanismi di controllo, ma spesso, però è anche sapere aspetti la fermo un attimo Crevaschi, però anche sapere dove tagliare, lei ha indicato questa cosa molto precisa. Allora andiamo alle informazioni sul traffico, poi riparto all'onorevole Guttgeld, a questo punto gliel'ha chiesto lei, diciamo in via indiretta, vorrei capire, l'onorevole Guttgeld dice dove tagliare, visto che tagli non lineari, quali sono i tagli che farebbe? Eccoci qua. Allora, onorevole Guttgeld, dove si taglia? Si può tagliare ovunque. Faccio la risposta facile. E gli esempi ne posso dare decine. Possiamo tagliare nella difesa, possiamo tagliare nella sanità, possiamo tagliare in tutte le strutture dello Stato. Noi abbiamo, per esempio, in ogni provincia italiana abbiamo decine di strutture dello Stato, prefetture, questure, tribunali e così via, che sono tutti indipendenti dal punto di vista per esempio di contabilità, ufficio acquisti, ufficio amministrativi e così via, si potrebbe pensare a un modello diverso, un modello dove tutte le attività che riguardano la cittadinanza ovviamente rimangono dislocate sul territorio, mentre invece tutti i servizi di supporto possono essere centralizzati. Esempi di questo tipo si possono fare in decine. Il tema non è dove, è ripeto il come, e vorrei dire solo un punto sulla meritocrazia e in questo senso anche dare un po' ragione a Crevaschi. Il tema della meritocrazia per me è prima di tutto premiare i bravi, premiare chi fa bene. Il tema del punire chi non fa bene è un tema anche quello. Però la cosa più importante, tutte le esperienze di tutte le organizzazioni nel mondo dimostra che le organizzazioni funzionano quando i bravi vengono premiati. Non è tanto una punizione per chi sbaglia, ma è per premiare chi è migliore. Ecco. E questa è la cosa più importante. Se noi riusciamo, per esempio, nella pubblica amministrazione, chi fa bene, riuscire a fargli un percorso di carriera più veloce, e non semplicemente usare l'anzianità di servizio, che purtroppo è il criterio più diffuso e più utilizzato per fare avanzamenti di carriera, per esempio, questo sarebbe un cambiamento enorme, questo darebbe darebbe un impulso a tutti a far meglio, a cambiare e così via. Quindi la meritocrazia in positivo. Sentiamo un ascoltatore, Giovanni da Pavia. Buongiorno Giovanni. Sì, buongiorno a lei. Io sono un dipendente di una pubblica amministrazione locale da circa una ventina d'anni e mi sono occupato anche di, ho fatto rappresentante sindacale per diversi anni a livelli regionali, quindi la realtà degli enti locali mi è abbastanza nota. Quello che, una domanda vorrei fare semplice, perché poi alla fine, chiedo scusa, viene ad essere scaricato tutto sui lavoratori, sui dipendenti. Come è possibile applicare la meritocrazia? Chi giudica i dipendenti? Perché il problema sostanziale è questo. Come si può capire, scusate, se un lavoratore ha operato in modo corretto? La maggior parte delle volte non c'è un sistema per poter giudicare correttamente l'operato dei dipendenti. Questo è fondamentale, glielo posso garantire. Vediamo, ma lei pone un problema interessante. Professor Piga, si è partiti insomma dai numeri, gli sprechi che lei ha citato in questo studio, abbiamo introdotto questo tema della meritocrazia. Lei come giudicherebbe l'efficienza produttiva di un dipendente pubblico? Guarda, intanto comincio da un punto chiave che risponde sia alla questione del chi giudica sia alla questione del dove si taglia, che è la questione nel mondo degli appalti è più semplice che nel mondo dei dipendenti pubblici, per un semplice motivo: si centralizza il dato, cioè tutti quegli argomenti giusti, premiamo la performance positiva, i dipendenti pubblici che fanno gli appalti bene, lei non lo può fare se non ha a disposizione il dato. Ora, la bellezza degli appalti rispetto agli stipendi pubblici è che i dati ci sono, sono oggettivi, parlano, e quindi bisogna semplicemente investire nel dato. Ora lei mi spiega perché, mentre tutti i paesi del resto del mondo hanno la centralizzazione del dato, per cui il Monti, Letta, in ogni momento sanno se quell'ambulanza è comprata allo stesso prezzo per la stessa qualità in tutto il paese, i nostri governanti non hanno fatto un investimento di questo tipo in nessun modo. Secondo punto, cosa ci fai con quel dato? Ci fai ovviamente la remunerazione su performance, cioè ci premi bravi. Io vedo con grande felicità l'arrivo di Carlo Cottarelli a gestire questa cosa. Ma lei che risposta ti ha dato? Anche... Cioè, perché i governanti italiani, lei che risposta ti ha, non hanno utilizzato questo dato? Perché è scomodo, perché si metterebbe le mani in qualcosa di... Guarda, io penso che ci sia chiaramente, e questa è una domanda che lei può fare anche in un certo senso, l'altro lato della medaglia, che è Confindustria. Perché Confindustria in questo non ha mai fatto una battaglia molto forte poi alla fine su questo tema? C'è bisogno di capire, sia da un lato dei politici che dall'altro lato dalle imprese, che qui c'è una torta che si ingrandisce per tutti e non che si deprime per tutti. Se facciamo un passo indietro, ne facciamo tre avanti. Non credo che questa forza politica sia capace di fare questo. Io vorrei capire esattamente quanti dipendenti e quanti soldi avrà a disposizione Carlo Cottarelli per il suo lavoro. Io leggo nella normativa che lui dovrà fare il suo lavoro senza impattare sul bilancio. Carlo Cottarelli ha bisogno di un esercito di persone competenti prese dalla pubblica amministrazione e dal settore privato per fare una battaglia epocale. Se lo lasciamo lì da solo, non c'è assolutamente... No, ma è chiaro, non è la soluzione uomo solo al comando che è una soluzione possibile. Cremaschi, lei ha capito poi come è finita la storia dei $100 per tavolette da water? Non ho mica capito. Perché costavano così tanto? È finita che le grandi burocrazie ovviamente si autotutelano, per quello che dicevo. No, adesso non me lo ricordo. Mi ricordo perché sentendo questa discussione... Cioè, la verità è che appunto una grande struttura, se non è sottoposta a un controllo, tendenzialmente fa questo. Ma in teoria qua il controllo c'è la Corte dei Conti, ci sono i controlli, certo, in Italia. Ci sono i controlli, ma io penso che ci vuole un controllo anche più ravvicinato. Cioè, io penso che la pubblica amministrazione deve basarsi di più, deve primo dare più fiducia ai suoi dipendenti, perché come diceva prima il signor Bartolo, mi pare, ho sentito nell'inizio della trasmissione, è chiaro che oggi insomma i dipendenti pubblici sono criminalizzati, diciamolo pure, criminalizzati influenzati perché diciamo nei mass media hanno la colpa della crisi italiana, sì, e non è vero. Non è così. Secondo, gli hanno tagliato gli stipendi. Terzo, in molte condizioni, basta girare oggi per un ufficio, sono, come si dice, sull'orlo del collasso nervoso perché sono sotto organico, devono fare fronte a richieste crescenti, giustamente, dei cittadini, ma sono sotto organico, quindi sono in condizioni difficilissime da operare. Quindi si sta innestando un meccanismo che è vizioso, non virtuoso. No, ma è chiaro, lei dice che questo meccanismo può essere anche pericoloso come, diciamo, conseguenze sociali nei prossimi anni, anche con il blocco degli aumenti degli stipendi del pubblico impiego. Beh, noi ci dobbiamo fermare qui. Ringrazio tutti l'onorevole Yoram Gutgel del Partito Democratico, il professor Gustavo Piga e Giorgio Cremaschi. Potete riascoltare tutto sul sito radio24.it e l'appuntamento è rinnovato come sempre a domani. I saluti da Miriam Lucchetti, da Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè sempre lì in regia. Potete seguirmi anche su Twitter, Alino Milan, quello è il mio profilo, e ci troviamo domani alle 6.30 puntuali. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.